Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Pensami tanto, tanto intensamente, con il corpo e con la mente, come se io fossi lì. Guardami con quegli occhi azzurro mare, che mi sanno anche ingannare, ma mi piace anche così. Che le celebrità abbiano almeno un buon ritiro da qualche parte nel mondo per staccare dalla frenesia della vita mondana è cosa nota, ma certo non tutti possono contare su un villone come quello di Julio Iglesias. L'artista non anglofono di maggiore successo di tutti i tempi si è scelto una casa all'altezza della sua carriera, del valore incalcolabile, ma che si aggira intorno ai 30-35 milioni di dollari. Cos'ha di speciale? Tanto per cominciare, si trova in uno dei quartieri più esclusivi di Miami, dotato di una municipalità indipendente con un servizio privato di polizia attivo 24 ore su 24 e un pattugliamento anche marittimo. Come dire, visto il capitale non si sa mai. Si chiama Indian Creek Island e solo 33 selezionatissimi super VIP hanno avuto il privilegio di acquistarvi una residenza. Quella di Iglesias all'esterno è piuttosto sobria, vialetto circondato dal verde, qualche palma sparsa qua e là. Come le altre case, è in riva all'oceano, vista sulla baia di Miami e campo da golf a due passi. Poi entri, si fa per dire, e l'anonimato di lusso lascia il posto all'opulenza. Sculture antiche, riproduzioni, una miriade di oggetti d'arte, quadri, tappeti. Iglesias non si è fatto mancare niente. Ma in fondo perché avrebbe dovuto? Con più di 250 milioni di dischi venduti nel mondo in più di 40 anni, le signore che lo hanno amato fin dagli albori, celebrandone il fascino latino, le canzoni icona, i figli famosi e le conquiste, lui è e resterà sempre il divo. Io continuo ad assaporare il piacere della lingua italiana. In Italia ho avuto molta fortuna. Ancora oggi cantare in italiano è la mia marcia in più. Vado in Australia e mi chiedono di parlare dell'Italia e io mi sento anche un po' italiano. E poi Spagna e Italia sono unite da molte cose, dalla forza di un mare meraviglioso come il Mediterraneo, dalla forza della passione, dall'aver dato i natali a grandissimi pittori, scultori. E poi sono unite dal sole, dal gusto del cibo, dal vino. Io amo questi due paesi. Anche se vivo da molti anni a Miami, la mia vera casa è in Europa. Abbracciami e lascia che il tuo corpo volerò. Mi sembra di conoscerti da un secolo. Il resto conta poco, forse no. Abbracciami e getta al mare, al vento, l'inquietudine. Parlare dopo tanta solitudine. Io le parole giuste non le so. 2011, Uzbekistan. A Tashkent, la capitale, rimane poca traccia dell'antico fascino di una città sulla via della seta che correva dalla Cina all'Europa. Un po' per il terremoto che l'ha distrutta nel 1966, un po' per il piano urbanistico sovietico elaborato fin dal 1916. Fatto sta che oggi a Tashkent ci sono più che altro edifici amministrativi austeri, parchi immensi ed enormi condomini dormitori che rimandano inevitabilmente al regime staliniano. Comunque, a livello politico, in Uzbekistan c'è una dittatura feroce, considerata dai rapporti di Human Rights Watch una delle più truci e repressive al mondo, tanto da contendersi il primato negativo con la Corea del Nord e la Birmania. Islam Karimov, il dittatore, è temutissimo. E non da meno è sua figlia, la quarantenne Gulnara Karimova. Occhi da cerbiatto, lunga chioma bionda e potere incontrastato. La donna possiede un vero impero, con attività che spaziano dalla telefonia alla sanità, dai media a grandi magazzini e nightclub. È accusata di usare come schiavi 1 milione di bambini per la raccolta del cotone nei suoi sconfinati possedimenti. Quando ha divorziato, ha fatto chiudere l'azienda del marito, gli ha fatto imprigionare 3 parenti e 24 li ha fatti deportare in Afghanistan. Tutto questo per dire che non è facile dirle di no. Cosa c'entra Julio Iglesias? C'entra. Perché nel 2011 ha partecipato insieme a Ramazzotti, Rod Stewart e diverse altre star internazionali al grande concerto che lei ha organizzato con l'evidente scopo di aumentare visibilità, propaganda e consenso al regime. Esplosa la polemica. Possibile che Iglesias e gli altri abbiano ceduto alle lusinghe del denaro venendo incontro alle esigenze della signora che governa un paese in cui i diritti umani sono carta straccia e gli oppositori del regime vengono uccisi con metodi barbari? Gli addetti stampa si sono affrettati a difendere le adesioni dicendo che si trattava solo di un concerto, nient'altro. Peccato di ignoranza o colpa grave? Beh, comunque l'amaro in bocca rimane. Iglesias in fondo lo sa bene cosa vuole dire dittatura. Sono nato e cresciuto nella Spagna franchista. Ho sentito racconti di repressione e visto la nascita della democrazia dopo la morte di Franco. La mia storia è indissolubilmente legata a quella del mio paese. E non potrebbe essere altrimenti. Bien dura, que el bacalao se venera de una manera muy dura. Mira cómo me gusta el bacalao, mira. Siamo a Madrid, alle 2 del pomeriggio di un caldissimo 23 settembre 1943. Nell'antico ospedale di maternità della calle Mesón de Paredes, la signora María del Rosario de la Cueva y Periñat prende per la prima volta tra le braccia il piccolo Julio, che come vuole la tradizione si chiama come suo padre. Ho vissuto l'infanzia con mio fratello Carlos, un'infanzia serena, con genitori che ci hanno sempre voluto molto bene e ci hanno insegnato il rispetto per gli altri. Ci raccontavano della guerra, di cosa era appena successo in Spagna e nel resto d'Europa. La famiglia è molto unita. Spesso a casa passano anche i nonni, Manuela e Ulpiano. A Manuela in particolare, Julio è legatissimo. Gli piacciono i suoi racconti, i giochi che si inventa, le canzoni che canticchia mentre cucina. I discendenti di papà vengono dalla Galizia, quelli di mamma dall'Andalusia. Fascino gitano e un po' di follia, è per questo che il nonno José de la Cueva, famoso giornalista, si era innamorato di nonna Dolores. Julio da bambino la musica non ce l'ha neanche in mente. Al di là dei dischi che sentono i suoi, non lo sfiora certo il pensiero di fare il cantante. Oltretutto, il suo grande talento sembra essere un altro, il calcio. È uno sportivo eccellente, veloce, resistente, disciplinato negli allenamenti. Non ne salta uno, e intanto se la cava anche a scuola. Un giorno, durante un amichevole con un'altra squadra di ragazzini, viene notato da un talent scout del Real Madrid, che gli propone di entrare nelle sezioni giovanili come portiere. Naturalmente lui è entusiasta di continuare a sognare una carriera da calciatore professionista. Ah beh, io da piccolo avevo in mente solo il pallone. Beh, oddio, da piccolo. In realtà anche da ragazzo. E oggi non mi perdo una partita. Ho fatto il portiere e sarò di parte, ma credo che Buffon e Casillas siano i migliori portieri al mondo. Curioso che invece i miei figli di calcio non si interessino proprio. Tutti, dal grande al piccolo. Sono tutti musicisti. Da Enrique a Rodrigo, che è una specie di piccolo mago della chitarra. E l'amore non solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor El amor, el amor. Nel 63 Julio Iglesias è un bel ragazzo che gioca a calcio da semiprofessionista, studia diritto all'Università di Madrid e ha successo con le ragazze. Insomma, ha una vita serena, ricca di gioie e soddisfazioni. Poi l'incidente e il mondo che ti crolla addosso. La storia è questa. Julio e i suoi amici Enrique Clemente Criado, Tito Arroyo e Pedro Luis Iglesias sono andati a passare una serata in un locale di Majadahonda, poco distante da Madrid. Una sera come tante, tra una birra, qualche tapas e le ragazze da adocchiare. Dopo i bagordi, quando ormai è quasi mattina, si mettono in macchina e vanno verso casa. Chiacchiere, risate, aneddoti. Una notte perfetta. Di colpo, la sterzata. Una frenata impossibile che non è abbastanza. E lo schianto. Arriva l'ambulanza, vengono tutti ricoverati in ospedale. Per Ulio il responso è drammatico. Poche speranze di riuscire a camminare ancora. E rimane semi-paralizzato per un anno e mezzo. Mi ricordo lo schianto, l'ho sognato molte volte. Il rumore, la botta. E poi risvegliarmi in quel letto d'ospedale, in una stanza che non conoscevo. Vedere i miei intorno e scoprire che non avrei mai più giocato a calcio. Già, il calcio. È questo il primo pensiero di Ulio quando si risveglia nel suo letto d'ospedale. Probabilmente non riuscirà mai più a camminare, figuriamoci a giocare a calcio. Una carriera promettente interrotta proprio quando poteva esserci una svolta importante. E interrotta per sempre. Tutti gli stanno vicino, ma lui è inconsolabile. Suo padre prende l'aspettativa dal lavoro per seguire la lunga riabilitazione, ma niente da fare, lui non riesce a fare altro che guardare fuori dalla finestra pieno di malinconia. Poi, giorno dopo giorno, diventa amico di un infermiere che non ha molti anni più di lui, Eladio Magdaleno. Eladio si siede sulla poltrona a fianco del letto di Ulio e chiacchierano del più e del meno ascoltando vecchie canzoni. Eladio ha una chitarra, ogni tanto la suona. Ulio comincia ad appassionarsi, impara gli accordi e cerca di seguire la musica di sottofondo. Insieme alla tecnica, anche il suo umore migliora a vista d'occhio. Non si è dimenticato del calcio, è ancora un dolore vivo, ma ha scoperto che la vita può riservare altre passioni ancora da esplorare. Il giorno in cui firma il foglio delle dimissioni, Eladio lo saluta con un abbraccio e gli regala la sua chitarra. È l'inizio della leggenda di Ulio Iglesias. Ho pensato spesso che nella vita ci sono momenti di svolta decisivi. Magari senza quell'incidente avrei fatto il calciatore, o magari no, per altri motivi. Impossibile saperlo, è il destino. Fatto sta che dopo l'incidente ho iniziato a fare altro, perché a calcio non potevo più giocare. E ho imparato a suonare la chitarra, da autodidatta, con un infermiere che mi faceva da maestro. Viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Durante tutta la riabilitazione, Ulio Iglesias scrive versi romantici, canzoni tristissime che si interrogano sulla missione dell'uomo sulla Terra. E intanto lavora sodo per recuperare l'uso delle gambe, correndo tutti i giorni alle prime ore del mattino nelle spiagge di La Cariuela, a Torremolinos, vicino a Malaga, e a Benidorm, vicino ad Alicante. Alla fine tanta determinazione viene premiata. Iglesias ricomincia a camminare e ha ormai deciso che vuole fare il cantante. Ormai riuscivo a cavarmela con la chitarra. Suonavo abbastanza bene per accompagnare i testi con la musica. Non ero certo un grande musicista, ma volevo fare solo questo. Non pensavo nemmeno più al calcio. Un cantante di lingua spagnola può davvero sognare di sfondare nella musica? Ulio Iglesias è convinto di no e corre in Inghilterra a imparare l'inglese. Riuscire a scrivere nella lingua delle grandi pop star è imprescindibile, pensa con lungimiranza. E allora si iscrive al Ramsgate a Londra, per poi passare alla Bell's Language School di Cambridge. Di tanto in tanto, nel fine settimana, canta all'Airport Pub, un repertorio fatto di pezzi di Tom Jones, Beatles e Rolling Stones. Una sera in prima fila c'è una ragazza bellissima. Ulio ha 25 anni, lei 18. Gwendolyn Bollore. È così che si chiama, minuta, capelli biondi, lunghissimi, che le scendono lungo la schiena, occhi grigio-azzurri e zigomi alti ereditati da sua madre, una principessa russa. È amore a prima vista, un amore vero che Ulio prenderà a modello per tutte le sue relazioni successive. Scrivevo le mie canzoni pensando a lei. Era la mia musa. Y tan solo encontré mi soledad, y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás cuando aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor. Sembra un te acuerdes de mí. Julio Iglesias ancora non può saperlo, ma Gwendolyn, la canzone che scrive per lei, diventerà uno dei suoi più grandi successi. Poi l'amore finisce, lui la tradisce con quella sua tendenza all'infedeltà che non lo abbandonerà mai e torna in Spagna. Ha registrato i suoi pezzi alla belle meglio con un registratorino casalingo. Bussa le case discografiche, prende tutto il coraggio che ha e li propone. Non per lui. Sa di non essere un musicista all'altezza. Vorrebbe che i suoi pezzi li cantassero gli altri. Ma quando un produttore gli chiede di fargli sentire un pezzo live con il solo accompagnamento della chitarra, il risultato è strabiliante. Perché non la canti tu? Gli chiede. Me la sapevi. Io non ero un cantante. Non me l'aspettavo. Ma forse la mia voce riusciva a esprimere al meglio quello che avevo dentro e che avevo scritto nei miei pezzi. Così mi hanno convinto. Siamo nel 1968. Julio Iglesias si presenta al Festival della Musica di Benidorm, che all'epoca è molto famoso. Il 17 luglio viene proclamato vincitore grazie alla sua canzone La vita sigue igual, tradotta in italiano col titolo Se lei non c'è. E poco dopo arriva il primo contratto discografico con la Discos Columbia. Succede tutto così, velocemente e in modo inaspettato. Il giorno prima non ero nessuno e in un attimo ho iniziato a cantare in francese, italiano, inglese. Incredibile. Ci ho messo un po' a rendermi conto di essere diventato famoso. La gente mi riconosceva per strada, mi chiedevano l'autografo. I magnifici destini. Se di notte voli amore, c'è una sola donna che lo fa, Manuela. La sua vita è in una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. Lei non dice mai parole, odia il vento e il sole, è così, Manuela. Occhi grandi come il mare, prendere o lasciare, questo è lei, Manuela. Julio Iglesias è in assoluto il cantante solista di maggior successo nella storia del continente europeo. Si è classificato settimo per vendita di dischi nella storia della musica e tutto ciò ne fa una leggenda della musica latina e non solo. Ai Magnifici Destini stiamo raccontando gli albori della sua folgorante carriera. Dopo aver vinto nel 1968 il Festival di Benidorm, arriva il primo contratto discografico con la Discos Columbia. Nel febbraio del 1969 Iglesias partecipa al Festival International Golden Stag di Brașov, in Romania. E durante lo stesso anno fa la sua prima tournée in America, canta al Festival di Viña del Mar in Cile e realizza addirittura il suo primo film, che ha lo stesso titolo della canzone d'esordio, La vida sigue igual. Non mi rendevo conto davvero. Per i primi mesi dormivo sì e no 4 ore a notte. Ero felice ma distrutto. Mi era piovuta addosso una fortuna che non mi sarei mai immaginato nella vita. Stavo vivendo il mio sogno. Stava succedendo tutto così in fretta. Eh già, la carriera di Iglesias inizia in fretta. E al contrario di quello che è successo alle molte meteore della storia della musica, sarà destinata a durare decenni. Nel 70 arriva la grande consacrazione internazionale con la partecipazione all'Eurovision Contest Song. Iglesias canta Gwendolyn, dedicata al suo amore inglese. Un pezzo sentito ed emotivamente molto coinvolgente che fa sognare le ragazze. No, io non sono molto interessato alla bellezza in sé. Non seguo una logica precisa. Quello che mi colpisce è l'anima delle persone. In una donna noto il modo di fare, di comportarsi, l'intensità del suo sguardo. Ci sono donne non particolarmente belle, ma molto affascinanti, perché si vede che hanno carattere. Per esempio, durante i miei concerti non noto le donne che sono belle e basta, ma quelle che hanno negli occhi i sentimenti, la passione che io esprimo nelle mie canzoni. Ecco, capitolo ragazze. Iglesias è un vero tombeur de femme. Un pirata e un signore, come recita una delle sue canzoni più famose. Un po' per il suo fascino latino, un po' per le sue canzoni, un po' per i suoi modi, le donne cadono ai suoi piedi. Non lo ferma il matrimonio con Isabel, 9 anni meno di lui, 18enne tutta casa e chiesa che rappresenta ai suoi occhi la moglie ideale. Si conoscono nel 70. Il 20 gennaio del 71, un grande matrimonio a Toledo precede una romantica luna di miele alle Canarie. Arrivano subito i figli, una femmina e 2 maschi, uno dietro l'altro. Maria Isabel, Julio José e Enrique Miguel, che oggi è una pop star come papà. Julio amava molto i nostri figli, ma li amava a modo suo. Era un padre piuttosto distratto, non ha mai giocato con loro, non li ha mai portati fuori la domenica. Diceva che avrebbe passato molto più tempo con loro una volta cresciuti. Comunque, il nostro matrimonio è durato 8 anni e poi non ce l'ho più fatta a sopportare le sue scappatelle. L'ho affrontato dopo che una donna cubana mi ha detto che erano amanti. Lo sapevano tutti tranne me. Julio non ha negato, ha solo detto che non voleva che ci lasciassimo. Ma per me era finita. Dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. Julio Iglesias rivela già con le sue prime canzoni un talento capace di mescolare intensità e romanticismo, passione e ironia. Il merito però è anche di un magnifico incontro del destino che si è messo sulla sua strada e ha contribuito al suo successo. Lui si chiama Gianni Belfiore e le cronache raccontano che è andata così. Siamo nel 75. Julio, già famoso in gran parte dell'Europa e in Sud America, si imbarca con la sua orchestra sulla motonave Rossini, sulla quale lavora come animatore e organizzatore di eventi proprio Belfiore. Iglesias non è lì per lavoro, ma sa già che è impossibile che non gli chiedano di cantare. E infatti succede. Belfiore lo saluta, si mettono a chiacchierare e gli propone di esibirsi per gli altri ospiti della nave. Neanche a dirlo, è un trionfo. Comincia così un feeling destinato a durare per più di 30 anni. Julio invita Gianni a raggiungerlo a Madrid e Gianni ha l'occasione per proporgli una canzone che ha scritto appositamente per lui. Se mi lasci, non vale. All'inizio non volevo cantarla, ma poi Gianni è riuscito a convincermi. Nel febbraio del 76 l'ho cantata a Sanremo ed è stato un vero successo. Da quel momento io e Gianni abbiamo iniziato a lavorare insieme, sempre, sempre insieme, per anni. A volte un pezzo partiva da lui, a volte da me, ma è sempre stato un lavoro di squadra. Nonostante il grande successo ottenuto a Sanremo, la Rai non divulga Se mi lasci non vale perché la giudica troppo banale. E allora interviene ancora Belfiore. Siccome continua a lavorare sulle navi, si prodiga per diffonderla nelle maggiori stazioni radio sudamericane di tutte le città situate nei porti principali. Caracas, Cartagena, Panama, Lima, ovunque il pubblico impazzisce, tanto che la canzone comincia a girare fino a diventare numero uno in diverse classifiche in tutto il mondo. L'hanno interpretata in molti da quel momento. Se mi lasci non vale è diventata un classico tradotto in più lingue e cantato da personaggi del calibro di Frank Sinatra e Patrick Norman. Norman ne fa una versione mista francese e inglese che vende 1 milione di copie e ottiene il disco di platino. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Anche se secondo me un lover non ha nazionalità, Se mi lasci non vale racconta una storia molto latina. Ma credo che nell'arte di amare gli uomini italiani siano dei professionisti. Io ho imparato molto da loro. Mi manca l'Italia, soprattutto l'Italia del Sud, con il suo spirito. Le donne italiane sono fisicamente molto belle, molto passionali e hanno carattere. Sono abituate a gestire gli uomini italiani. Sanno essere buone madri, ma sono anche molto femminili. D'altronde in Italia la bellezza è ovunque. Basta guardarsi intorno. L'Italia, insieme naturalmente alla sua Spagna, è di certo il paese al mondo in cui Julio ha più successo. Gli anni 70 si aprono con hit che le radio passano in continuazione, come Manuela, Se mi lasci non vale, Sono un pirata, sono un signore e Pensami, la versione italiana di Júrame, celebre brano scritto negli anni 20 dalla compositrice messicana Maria Grever. Io amo molto i grandi della musica italiana. Battisti, Mina, Milva, Vanoni, Tony Renis, Luigi Tenco, Modugno. Conosco bene anche Laura Pausini. Abbiamo cantato insieme, ed Eros Ramazzotti. Conoscevo bene anche Lucio Dalla. Per me Caruso, dopo Volare, Ciao Ciao Bambina di Modugno, è il simbolo della rinascita musicale di quell'Italia che canta con il cuore. Abbiamo cantato insieme Caruso in Messico e ogni volta che la interpreto il pubblico la sente tantissimo ed è sempre una delle più applaudite. Un artista che scrive, canta canzoni così, È una persona di grande cuore, un vero poeta. Io adoro Lucio. Ha lasciato un grande vuoto. Vivevo una autentica magia. Sapevo ogni giorno un po' di te. Amante della vita e tu amante della mia. Noi scoprivamo quello che non c'è. Anche grazie ai testi scritti con Gianni Belfiore, la carriera di Julio Iglesias va a gonfie vele per tutti gli anni 70. Poi a Parigi, nell'83, arriva un premio curioso che lo lusinga. Vince infatti il primo e unico disco di diamante mai assegnato a nessun cantante dal libro del Guinness dei primati, per aver venduto più dischi in più lingue di qualsiasi altro artista musicale nella storia. Oltre a spagnolo e italiano, infatti, Iglesias canta in inglese, tedesco, francese, portoghese e perfino giapponese. Per me è molto importante che il mio pubblico mi capisca. Non voglio che cantino le mie canzoni senza sapere che cosa dicono. E credo che in gran parte sia questo che mi ha fatto avere così tanto successo. Io, per avvicinarmi alle persone, canto nella loro lingua. Non sono loro che si devono adattare a me, ma io che mi adatto a loro. Ha ragione Iglesias. Ha capito una cosa fondamentale del pubblico, che il pubblico ti ama se ti sente vicino. Perfino il mondo anglosassone, da sempre piuttosto restio ad apprezzare i cantanti stranieri, lo accoglie a braccia aperte. Il merito è di due duetti che sono entrati nella storia, tutti e due datati 1984. Iglesias canta All of You con Diana Ross e To All the Girls I Loved Before con un grande folk singer americano. Chi è? Lo scopriremo tra poco. Ai magnifici destini. I magnifici destini. Vai la morena, vai la che tu lo vai la scomodi tu. Arrastra la sandale, giamento locura. Vai la morena, vai la che tu lo vai la scomodi tu. Fascino latino, romanticismo e ironia, Julio Iglesias ha conquistato generazioni di donne lasciando decine di cuori infranti in tutto il mondo. Alle ragazze parla attraverso la sua musica, fatta di canzoni d'amore intense, talvolta più leggere, altre strappalacrime, e lo fa in un sacco di lingue diverse. Se la Spagna, dove è nato e cresciuto, è il suo primo amore, l'Italia rappresenta senza dubbio il secondo. Due popoli mediterranei uniti da un idioma neolatino e da un carattere che ha moltissimi punti di contatto. Due paesi diversissimi dal mondo anglosassone, per sua natura più freddo, chiuso e poco disponibile ad accettare cantanti che non cantano in inglese. Ho avuto tante soddisfazioni nella mia vita, ma forse la cosa che mi ha fatto più piacere è l'essere riuscito ad avere successo anche in Inghilterra e in America. Lì hanno fatto la storia della musica contemporanea, hanno la lingua perfetta per le canzoni e non è mai facile entrarci. Beh, di certo i duetti internazionali mi hanno aiutato parecchio. L'anno dei duetti per Julio Iglesias è il 1984. Non che non ne abbia fatti prima, e ne avrebbe fatti diversi anche dopo, ma di certo è questo l'anno della svolta. Mentre con Diana Ross canta All of You, con il suo magnifico incontro del destino Willie Nelson dà vita a un indimenticabile To All the Girls I Loved Before. Agli inizi degli anni Ottanta ho dato una svolta un po' più leggera alla mia musica, pezzi come On the Road Again, Always on My Mind, To All the Girls I've Loved Before hanno avuto un successo enorme. Sono piaciuti anche al mio pubblico, che era abituato a cose un po' più forti e decise. All the girls I once caressed, and may I say I've held the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. Di difficile pensare a una coppia più assortita di quella formata da Iglesias e Nelson. Basta vedere una foto che li ritrae insieme o uno dei tanti live in cui si sono esibiti per capire immediatamente che non potrebbero essere più diversi. Iglesias è elegantissimo, sempre con la giacca e la scarpa giusta, capello perfettamente pettinato, abbronzatura costante aiutata da una carnagione di natura piuttosto scura. Nelson ha la barba incolta, capello lungo su cui appoggia un cappello da cowboy o una bandana, petto nudo con gilet o al massimo una t-shirt malmessa. D'altra parte arrivano da mondi lontanissimi. Iglesias è un crooner melodico, abituato a cantare l'amore con toni delicati. Willie Nelson è il re del country americano. Texano, classe 1933, si è spostato a Nashville, la patria del country, per avere il suo primo contratto discografico. E da lì è stato tutto in ascesa. La band, gli album, le avventure on the road per gli spazi sconfinati del nuovo continente, un concerto tutte le sere. Tradizionalista e innovatore allo stesso tempo, in America Willie Nelson è una vera star, tanto che è comparso versione cartone animato in una puntata dei Simpson. L'ha intervistato Letterman, ha suonato con Johnny Cash, ha inciso insieme ad altre 44 star quella We Are the World prodotta da Quincy Jones, che è servita a mandare aiuti in Africa. Ma la sua carriera non è solo musicale. Ha fatto molto cinema, ha partecipato a episodi di diverse serie TV, non ha mai smesso di esibirsi per il suo pubblico. E ancora oggi non sta fermo un momento. Suonare con lui in America di fronte a migliaia di persone è stato magnifico. Nelson suona la chitarra in modo unico ed è incredibile vedere la folla che lo incita e lui che risponde. È tutto un altro mondo rispetto al pubblico a cui sono abituato. E forse proprio per questo è stata una grande esperienza. La sfida in effetti non è delle più facili, ma Iglesias ancora una volta fa centro dimostrando che uno dei suoi più grandi talenti è lo spirito di adattamento. Pur rimanendo sempre fedele a se stesso, riesce a sentirsi a suo agio in qualsiasi contesto, in qualsiasi lingua. È l'ultimo verano, tomados de la mano, camino hacia la playa, andavamos tú y yo. Lo nuestro parecía que nunca acabaría. Que no te dejaría ni me dejabas tú. Y cómo son las cosas, las vueltas de la vida. Quién sabe quién diría lo que iba a suceder. El último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver. Nel 1985 Julio viene immortalato nella Hollywood Walk of Fame, risultando uno dei pochi artisti ispanici ad aver dato le sue impronte. Nell'88 si giudica un Grammy Award come miglior cantante latino grazie al suo disco Un Hombre Solo. Nel 1992 in Florida viene nominato Español Universal, spagnolo universale, il che rende lui e la sua Spagna particolarmente orgogliosi. Non basta. Nel 97 arriva un grande riconoscimento, il premio Monaco della musica al miglior cantante latino. E nel frattempo diventa il primo artista straniero nella storia della Cina ad avere ricevuto il prestigioso Golden Record Award. Sì, è vero, ho avuto una vita splendida, non mi sono fatto mancare niente. Ho amato, sofferto, sono caduto, mi sono rialzato. Penso spesso che senza quell'incidente magari avrei fatto il calciatore. E invece il destino mi ha indicato la mia strada. Ed eccomi qua. Sono passati 40 anni, ma ancora non mi sono stancato di stare sul palco. Amore, amore, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amore, amore. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. I Magnifici Destini torna stasera alle 23, qui su Radio 24.